avanti. Allora già mi senti, ho detto. Giulio, ti ascolto basso basso, l'antenna è in terra praticamente. Ti sento male. Già lo so che è l'antenna bassa. Vabbè, non ci posso fare niente io. Lo so, giù. Appena la piazzo sul tetto già sentirò meglio, dai. Ci sentiamo. Ciao Giù, grazie per aver chiamato. Ok, ciao. Ciao Natale. Tuo nipote? Ah, era emozionato, stava sul padre, era emozionato.